Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ve li ricordate i Puffi, le Crystal Balls, il Furby, i Power Rangers? Se avete tra i 30 e i 40 anni non potete che rispondere di sì. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, oggi a Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, un romanzo ci guida in un viaggio nell'infanzia delle cose, ulteriore riprova della anni 80 mania che ci circonda. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parliamo poi di prodotti per la prima infanzia e per il focus sui trend di consumi scomodi. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. La crisi non risparmia il cappuccino e taglia la cena al ristorante. Secondo Confesercenti, il 16% circa degli italiani ha ridotto la frequentazione del bar e quasi un italiano su tre risparmia sulle uscite a cena. Al bancone, il rito della colazione si salva solo per il 50% dei casi. Resiste strenuamente quello dell'happy hour, mentre declina il dopo cena. Apriranno a Milano a fine 2010 i primi negozi Gap e Banana Republic. Molto conosciute negli Stati Uniti, le due insegne fanno parte dell'impero guidato da Glenn Murphy, prima catena di negozi di abbigliamento in America, seconda nel mondo dopo Zara. Effetto iPad sul mercato degli ebook negli Stati Uniti, dove scoppia la guerra dei prezzi. La catena di librerie Barnes & Noble ha deciso di ridurre da 259 a 199 dollari il prezzo del suo Nook. Il suo principale rivale, Amazon, ha risposto abbassando a sua volta da 259 a 189 dollari il prezzo del suo Kindle. Un mese, 28 tappe per 500 chilometri. Si correrà tra Sicilia e Sardegna l'Eco Maretona, edizione 2010. La corsa a tappe amica dell'ambiente partirà il 3 luglio da Cagliari per documentare lo stato di salute delle nostre coste. Trainati dalla popolarità di Facebook, i videogiochi per social network come Farmville, Zoo World, Happy Aquarium, Pet Society e Restaurant City hanno creato nel 2009 un giro d'affari stimato in 725 milioni di dollari soltanto negli Stati Uniti. Una cifra che, secondo gli analisti, dovrebbe triplicare entro il 2012. La borsa della spesa. Oggi nella nostra shopping bag ci sono i giocattoli dell'infanzia di molti di noi, sono i giocattoli anni 80 e 90. Oggetto del desiderio per molti collezionisti sono i protagonisti di un romanzo che racconta la nostalgia di una generazione e ci parla di una tendenza inesauribile, una tendenza che attraversa il cinema, la moda, la pubblicità e i prodotti di largo consumo, quella che si rifà agli anni 80. Marta Cagnola. Sono tornati nella moda tra pants, colori fluo e maniche con lo sbuffo. Sono tornati nella musica, nei cori, negli arrangiamenti elettronici, nel puro e semplice revival. Sono tornati anche al cinema con l'uscita del film ispirato all'A-Team. Ti sono mancato? Tu mi sei mancato tanto? Si parla ovviamente di anni 80. Molti di noi in quegli anni erano bambini e giocavano. Ai giocattoli degli anni 80 e non solo è dedicato il libro d'esordio di un giovanissimo scrittore milanese, Luca Rossi. Over. Una favola tutta di oggetti. Avevo intenzione di fare un libro sull'infanzia. Quale modo migliore per parlare dell'infanzia se non partire da una favola? Quindi oggetti parlanti si comportano come degli esseri umani ed è stato un modo per ricreare uno dei miti dell'infanzia che è l'oggetto animato. Quindi ti sei calato nei panni dei bambini e dei loro giocattoli. Quando sono piccoli credono che gli oggetti vivano di una vita propria e abbiano avuto una vita prima che noi li acquistassimo e hanno una vita che continuerà dopo che noi... La sera, quando noi li riponiamo nella loro scatola, mentre noi li utilizziamo. Questi oggetti abbandonati in una discarica rappresentano appunto il passaggio dall'infanzia alla vita adulta e la conseguente perdita dell'innocenza. Tra i protagonisti del libro ci sono giocattoli dell'infanzia anche di chi l'ha vissuta proprio negli anni Ottanta. Quando uno deve fare un libro del genere, tra l'altro è anche il primo libro che faccio, deve sempre partire dalla propria esperienza personale, per cui naturalmente sono oggetti appunto di bambini da quelli nati nel 70, quelli nati nell'80 e 90, sono gli stessi miti che sono vissuti per 20 anni, 30 anni, alcuni sopravvivono ancora oggi, per cui io stesso scrivendolo mi sono reso conto che pensavo fosse un libro indirizzato proprio appunto ai 20 anni di oggi, ma lo spettro si può molto allargare anche ai 30 anni fino ai 40 anni. Un oggetto come le Crystal Ball, i 40 anni di oggi se lo ricordano ancora benissimo. Con Crystal Ball ci puoi giocare, Crystal Ball, e tante cose da inventare, Crystal Ball. E questo è proprio uno spot d'epoca, risale al 1987. Lo abbiamo trovato in un sito ormai famosissimo in rete, l'antologia spot80.it. Tanti gli spot di giocattoli che solleticano la nostalgia. Il fondatore di Spot 80, Michele Logrippo. Ci sono serie complete di spot della Barbie. Alla festa Barbie e Ken hanno fatto faville con i vestiti luce di stelle. Ma è l'ora della buonanotte. Prima di andare a dormire la tua Barbie si pettina davanti alla specchiera luce di stelle. Ed ecco a voi Barbie Rockstar danzante! Insieme a lei il fantastico gruppo dei Rockstars! Luci, colori, divertimento nella discoteca di Barbie! Lo sapevi che alla tua Barbie piace tanto andare in moto? Ha un meraviglioso motorino rosa shocking a tutto gas. Quindi dalla bambola in sé, in tutte le sue declinazioni, agli accessori, la casa di Barbie, il centro commerciale di Barbie, tutte queste cose qua. E poi, beh, molti si ricordano, magari quelli lì un pochettino più giovani, i mostriciattoli della Jig, quindi gli exogini, piuttosto che i paciocchini. Migliaia, migliaia, milioni! Exogini, i misteriosi alieni. Arrivano dappertutto! La più grande collezione extraterrestre, Exogini! Le sorpresine Kinder che hanno fatto la storia, queste cose qua. Ho perso il vaso! Ho perso il pallone! Ti aiuto, papà? Mamma, faccio la torta! Eh sì, ci sono tanti momenti per un Kinder sorpresa. Ma lo stile anni 80 è tornato anche negli spot di oggi. Pensa allo spot della Zueg Skipper, che è on air in quest'estate, lo sarà per tutta l'estate da quello che ho letto, con un remake dello spot degli anni 80 e 90. E io non so se prendermi un piccolo merito per questo, però se Spot 80 non l'avesse pubblicato probabilmente non ci sarebbe stata tutta questa voglia di riprendere questi spot. Ma Michele, come scovate tutti questi spot? Nella maniera più semplice e ovvia che si possa immaginare, videocassette prese da amici, spulciate con tanta ansia. La cosa, diciamo, particolare è che tendi normalmente ad andare già verso la fine del nastro, perché è il punto in cui normalmente i videoregistratori al tempo venivano lasciati in registrazione per ore e ore, magari dopo la prima serata, potevano finirci anche degli spot pubblicitari dentro. Ora cambiamo argomento con il direttore di Markup Luigi Rubinelli. Parliamo di un settore che non conosce crisi e che sperimenta con successo tutti i canali di vendita, quello dei prodotti per bambini. Forse ve ne siete accorti perché avete un figlio in tenera età, ma pochi lo sanno davvero. Quando si ha a che fare con i bambini, la variabile prezzo non conta. Alla faccia del low cost, del risparmio e della convenienza, questa categoria appare insensibile allo sconto. O meglio, i responsabili di acquisto valutano il prezzo come una variabile secondaria. Succede un po' in tutte le categorie merceologiche e in tutti i canali di vendita. Pensiamo ai pannolini e alla diversità di prezzo fra supermercati e farmacie, ma anche a certe creme e certi accessori che sembrano ormai diventati dei prodotti d'impulso e, come tali, il marketing li tratta. Prodotti in genere dal ciclo di vita lungo, che possono resistere sullo scaffale anche mesi. È l'alto margine a compensare infatti la bassa rotazione. Chi proprio ha problemi assillanti con il budget si rifugia nelle promozioni, fenomeno che ormai spazia dalla GDO alla farmacia e, con pazienza, finalizza qui il suo acquisto. Il discorso cambia se però prendiamo in considerazione alcuni accessori come i passeggini o l'abbigliamento firmato. Per queste singole categorie si è creato un mercato parallelo dell'usato, con negozi specializzati dove è possibile acquistare vestiti di grandi firme o passeggini di gran nome a prezzi davvero interessanti. se ne è accorto anche il merchant online eBay, che al bambino dedica un'apposita sezione con decine di segmentazioni merceologiche. Dicevamo però del marketing. Le ricerche ci dicono che in questo segmento di mercato la fidelizzazione alla marca non scema, anzi. È un problema di rassicurazione, ma anche di qualità dei prodotti che non accenna a diminuire. Magari succedesse anche in altri comparti. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere. Per questa seconda parte ci ha raggiunto, come sempre, Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Bentornata, Patrizia. Grazie e buon pomeriggio. Oggi parliamo di consumi scomodi, vestiti, accessori, mobili, gioielli enormi, pesanti, fuori scala, ma anche luoghi per il tempo libero come alberghi e ristoranti uncomfortable, prodotti e servizi che esaltano la creatività di stilisti e designer, appassionano i collezionisti e gli amanti del genere e anche se di fatto sono poco usabili hanno un loro mercato e, lo vedremo, hanno anche un loro valore sociale persino per certi diversi. Patrizia. Sì, molti ascoltatori conosceranno o visualizzeranno con me adesso la sedia più scomoda del mondo. È quella per visite brevissime di Bruno Munari, una sua creazione in 9 esemplari del 1945 progettata per Zanotta. È questa sedia con la seduta inclinata a 45 gradi che suggerisce appunto all'ospite di non fermarsi troppo, grazie anche al sedile che è in alluminio anodizzato e favorisce lo scivolamento verso l'uscita. Cito questa ironica provocazione artistica di Munari perché è una bella metafora della scomodità non fine a se stessa naturalmente, o non come difetto progettuale senz'altro, ma come ricerca, come messaggio, anche come apprendimento o chiave di accesso ad altre esperienze. E infatti nel continuo ribilanciamento della scala di bisogni e desideri nel palinsesto personale di noi consumatori postmoderni c'è anche la scomodità. Allora, tu già accennavi a tacchi, borse, colli, gioielli monumentali, insomma queste interpretazioni estreme che arrivano dal mondo dei consumi e che producono certo stupore, meraviglia e quindi rendono la scomodità un effetto secondario. Sono delle specie di oggetti di cui ci circondiamo, sculture quasi indossabili o forse non indossabili, in genere non oltre le passerelle, e comunque che afferiscono al mondo delle celebrities. Tra l'altro, come è successo recentemente a Lady Gaga all'aeroporto di Londra, se le scarpe stivali sono letteralmente dei trampoli a zeppa, cadere va messo in conto, mentre camminare diventa una sfida alla gravità a ogni passo. Ma vediamo qualche associazione apparentemente controintuitiva, per esempio scomodità e lusso, nel senso di scomodità come prezzo da pagare per servizi di lusso altrimenti inaccessibili. È il caso di un elegante resort, si chiama Rancho Bernardo Inn San Diego, che fa una specialissima promozione low cost. Si tratta di una formula privativa che ha avuto un immediatissimo riscontro sul mercato, si chiama Survivor Package, pacchetto sopravvivenza, per cui più si rinuncia alle comodità, dall'aria condizionata fino al letto stesso, meno si paga. Quindi da $200 a notte si scende fino a 19. Evidentemente la scomodità nel racconto dei clienti diventa un elemento esperienziale interessante e non certo una rinuncia per impossibilità economica. E poi scomodità e spazio. Certamente le esperienze di scomodità sono legate anche alla dismisura degli spazi. Quindi proprio perché le dimensioni delle cose hanno molto a che fare con il comfort e con il suo contrario, per esempio il micro, la misura lillipuziana, così come l'extra large, sono decisamente rubricabili come uncomfortable. Allora abbiamo gli hotel, parlando di viaggi, ricavati in tubi di cemento, sono dei veri loculi cilindrici, dalla vivibilità solo in orizzontale, si gattona direttamente sul letto che è anche pavimento, oppure sempre stando nel micro, gli alberghi definiti proprio nei messaggi promozionali anti-comfort, quelli ricavati in location dismesse o luoghi improbabili come lo Zero Stelle Hotel di Sevelen in Svizzera, il cui claim è l'unica stella sei tu ed è ricavato da un ex bunker antiatomico, ha le prenotazioni fino al 2012 e nel kit fornito all'ospite in arrivo ci sono tappi per le orecchie e bowl dell'acqua calda. Poi abbiamo a Torpenes nel Suffolk in Inghilterra Inghilterra, un'ex cisterna d'acqua che diventa un hotel a 5 piani con una stanza per piano, tutta di legno nero. L'ultimo piano ha il tetto rosso in mezzo al verde, molto suggestiva. Si chiama House in the Clouds, la casa tra le nubi, e per dormire nella stanza rossa sono necessarie però 67 rampe di scale. E la tendenza contagia anche uno dei luoghi più comodi per antonomasia, le spa. Scomodità come dimensione del lusso contemporaneo. La riprova arriva dalle spa. Simbolo del benessere a 5 stelle, da qualche tempo sperimentano anche la strada della privazione. È il caso dell'irlandese Body and Soul, costosissima beauty farm, dove la sveglia suona alle 6 del mattino e inaugura una giornata di lavori forzati. Ginnastica, lunghe marce all'aperto e altre faticosissime attività, intervallate da micro pranzi, lezioni di yoga e di life counseling. In alternativa, con $8,000, si può passare una settimana al Golden Door Escondido, in California, in cui sono previsti esercizi di pratica del silenzio e della solitudine protratti all'inverosimile. La Spa Finder, nuova mecca newyorkese per salutisti, propone invece una disintossicazione extra lusso centrata su fitness estremo, niente dolci, alcol, carne e latticini. Patrizia, sono esperienze che fanno anche un po' sorridere. Il loro valore dove sta? Nella provocazione, nel concetto di superamento del limite? Sì, ci può stare anche il superamento del limite, se per limite intendiamo il limite della percezione sensoriale che viene assolutamente sempre sfidato. Il Museo Maxi di Roma, per esempio, nelle esperienze riportate anche in rete da chi l'ha visitato, pare produca un'esperienza scomoda, nel senso di straniante, cioè un'apparente incertezza, un disequilibrio fisico oltre che percettivo, e questo non sentirsi a proprio agio diventa parte, a detta di alcuni, parte memorabile dei percorsi intuitivi personali. Scrive nel blog senzaguinzaglio.wordpress Elena Quella di Londra, è così il nome dell'autrice. Cito testualmente: passata la soglia di ingresso non c'è luogo, angolo o scalino in cui puoi fermarti senza sentirti a disagio. Ovunque ti fermi sei stonato, ovunque ti appoggi ti gira la testa. E il segreto quindi è non fermarsi, continuare a camminare, salire, scendere, entrare, uscire. Il Maxi è uno spazio pensato, disegnato e realizzato come una gigantesca pompa che ti risucchia da un lato e dall'altro, ti frulla e ti sputa fuori da qualche uscita. Il Maxi è il palazzo di una dominatrice, ricordiamo a chi ci ascolta che è stato progettato dall'archistar Zaha Hadid, e tu sei un burattino, ma un burattino felice con le gambe stanche e la testa che gira. Quindi da queste righe molto efficaci capiamo che qui si tratta di una scomodità sinestetica, cioè che riguarda tutti i sensi, progettata, quella di essere seppelliti sotto la magnitudine di bianco e spirali o essere schiavizzati sensorialmente, sempre nelle parole dell'autrice del blog. E questo diventa parte dell'esperienza che si cerca. Infatti Elena, quella di Londra, conclude con un inequivocabile "e ne vuoi ancora". Altro esempio di disagio claustrofobico, di inciampi su pavimenti obliqui, di prospettive ipnotiche squilibranti, anche se con un portato simbolico sull'olocausto a cui sarebbe improprio in questa sede anche solo accennare, il Museo Ebraico di Berlino, firmato da Daniel Libeskind. Anche dentro questi volumi scuri e molto introversi si prova un costante necessario, obbligatorio disturbo. Dunque è una scomodità che l'individuo postmoderno come consumatore culturale va cercando. In epoca di minimi ingombri, dei tech device sempre più miniaturizzati, soprattutto quelli da lettura, pensiamo al Kindle e all'iPad, resistono e diventano oggetti di culto i libri oversize. Per esempio nel mondo del fumetto, la seconda edizione di Watchmen di Alan Moore, edito da Planeta di Agostini nel 2009, che raccoglie episodi usciti nell'86 e nell'87, è questo Maxi albo, 464 pagine, rilegato per letture cartacee vecchio stile da fare necessariamente in casa, magari comodamente seduti, visto l'ingombro, il peso e la scomodità di maneggiare questo oggetto. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Tokyo su scomodità e dintorni? Questo è il momento della nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao, un saluto a tutti. Dunque, nella capitale del Sollevante sono molti ristoranti a tema, contraddistinti da una neanche tanto sottile vena masochista. Tra questi l'Alcatraz Restaurant, che, come si può facilmente intuire dal nome, ricrea l'illusione, ma è tutto vero, di cenare in una prigione. Tanto per cominciare si viene ricevuti dai camerieri secondini, a cui bisogna dichiarare il gruppo sanguigno. Espletata questa pratica si viene ammanettati, scortati e chiusi a chiave nella propria cella. Si può chiaramente scegliere il tipo di detenzione preferito, dalla cella di isolamento al reparto sanitario e via così. Una volta accomodati sul freddo pavimento, la cena comincia con un aperitivo denominato iniezione letale, versato nei bicchieri da una siringa, e prosegue con piatti serviti in povere scodelle di alluminio. Nel caso uno dei commensali volesse recarsi alla toilette, dovrà chiedere il permesso ed essere scortato dalle guardie previo annuncio pubblico in tutto il locale. A rendere l'esperienza ancora più immersiva, all'improvviso nel corso della serata le luci si spengono, scatta l'allarme e viene simulata una tentata evasione che sarà poi sventata dal personale. Personale che, notate bene, non esce mai dalla parte. Il punto è infatti rendere il tutto più reale e il più emozionalmente carico possibile per riuscire a trasmettere ciò che i clienti stanno cercando. Emozioni forti, appunto, che in questo caso coincidono con il disagio, l'umiliazione e la sofferenza. Grazie Alessia, ovviamente anche qui il codice espressivo, è bene dirlo, è quello della provocazione. Patrizia, anche in un momento come questo di riflessione sui consumi, di valutazione effettiva della loro necessità, la scomodità comunque trova un suo spazio. Sì, chiudiamo con una riflessione sulla scomodità cognitiva, quella quindi non legata agli oggetti così solo provocatori o solo legata al mondo dei consumi, cioè quella scomodità che provoca, che smuove, che diventa anche uno stimolo culturale o un pungolo per mettere in discussione anche cliché, anche pregiudizi. Se ci facciamo disturbare, ci mettiamo in discussione, appunto, la scomodità può diventare appunto un motore che ci aiuta nell'emancipazione anche culturale. Un esempio di ciò che sto dicendo potrebbe essere Una scomoda verità, il libro e docufilm di Al Gore e Davis Guggenheim sul problema mondiale del riscaldamento globale, quindi sui cambiamenti climatici, ma un altro esempio potrebbe essere il saggio Eating Animals, quello di Safran Foer sull'allevamento intensivo. Che si creda o no a ciò che si legge, la lettura di questi testi o la fruizione di altri consumi culturali più è scomoda e più aiuta. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, resta solo il tempo per darvi appuntamento a domenica prossima, come sempre alle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.